Abbiamo iniziato la seconda parte di Up con un altro brano di Alberto Turra, questo è Cellule, e avevamo terminato sempre con lui la prima parte qualche minuto fa con due brani aggregati che portano lo stesso titolo, ovvero 8 haiku sulla morte, e poco prima avevamo ascoltato dalla sua playlist Soweto Kinch Trio. Dopo Cellule torneremo all'ascolto degli ultimi spezzoni di questa intervista ad Alberto Turra e alla sua playlist. Di generi completamente diversi, per Gombonnaia, che è questo ragazzo, scusami il francese, mi entusiasma il fatto che con una certa naturalezza una persona riesca a fare quel cazzo che gli pare, e convincendo però, non solo come vezzo di libertà, ma anche portando a casa dei risultati che sono assolutamente alti e importanti. Quindi boh, l'ultima cosa che ho visto su Facebook stamattina è il nuovo progetto in itinere di Nate Wood, batterista dei Unibody, è un batterista, un polistrumentista in verità, pazzesco, in cui suona tutto lui da solo, one take, suonando basso, synth, batteria, ma nel senso contemporaneamente. Vai a vedere su Facebook ed è una cosa che dici, ok, lo sapevo che lui era un pazzo maledetto di quel genere, ma ha deciso, boh, probabilmente per mettersi in agonismo con di Anthony Parks, che ha fatto questa cosa che si chiama Techno Self, in cui anche lui suona batteria e synth contemporaneamente, ha deciso di fare quest'altra cosa. Quindi appunto questi qui, questi talenti che decidono un po' di muoversi e di esprimere, di buttare fuori, però in modo che sia anche costruttivo in qualche modo, perché ascolta, non solo che non crei soltanto lo stupore, no? Sì, circense, certo. Ma che ci sia del materiale interessante anche. E Gombo Naya è un artista che ho scoperto anche da pochissimo e che l'ho scoperto come cantante quasi trip hop nelle prime cose che io ho visto fare, sono le ultime cose che ha registrato per KEXP su YouTube. E la poi radio, vado un po' a cercare, sono le pochissime sessioni che KEXP ha fatto in uno store, in un grocery, in una piccola drogheria. E poi in verità vado a scoprire che è un bravissimo polistrumentista anche lui e ha tutto un'esistenza parallela math rock, cioè un chitarrista con un suono che ricorda di Don Caballero, che ricorda non so, delle cose, gli Owls, piuttosto che The Sound It's Guns, cioè il math rock. Sì, quello dei primi anni 90, sì. Bravissimo. che con il trip hop non c'entra una beata fava. Non proprio, in genere almeno. Però lui ha la necessità di fare tutte e due queste cose. Poi ogni tanto vedi che rappa in modo assolutamente leggero e scanzonato, è assolutamente understatement come personaggio. Visto anche delle interviste così. E per cui insomma mi è piaciuto moltissimo da subito, ma è una scoperta recente, l'ho scoperto 2 settimane fa, 10 giorni fa. Words I said, crying on the phone, my disappointed mama wept. told him she would discipline me when she saw me next. But next was in a couple hours after class with her. Tried to think of ways I could escape my mother's hand. Tried to think of ways I could have saved my goofy ass. And I walked slower. Yeah, I walked slower than I ever have. Hoping time would stop. And I thought over. Yeah, I thought over. Everything I'd done. Walking towards my house, throat is cold, a cotton candy mouth. No amount of water could have got me drooling now. No amount of sugar could get mama sweetened up. No amount of padding stopped my ass from bleeding out. She whooped my ass, whooped my ass. She whooped my ass, whooped my ass. I guess this is it. Guess I had a good run for a bit. Dying's just a part of life and now I'm nearing it. Fearing every step that lead me closer to my crib. Cause I know that my mama's gonna want this little kid. Tried to think of ways I could escape my mother's hand. Tried to think of ways I could have saved my goofy ass. And I walked. Walked slower. Yeah, I walked. Walked slower. Than I ever have. poi Two Footy Arts invece no, è una scoperta molto meno recente, Carla Kinstead Company, lei è una violinista incredibile della scena avant rock americana, Sleeping Tiger, il Museum, piuttosto che lei è stata la violinista di Cosa Brava di Fred Frith. Ah, addirittura. sì, e per cui nulla. Fuji Arts sono lei, Marika Hughes e Ismael, adesso mi verrà il cognome, comunque il bassista dell'attuale Mark Ribot Trio. Ah, ok, sì. E sono loro tre e fanno una musica deliziosa, fanno una musica veramente profonda e meravigliosa. Canzoni speciali. One couch, one bed, one desk, one chair, one E niente, credo di averti detto tutto, ho parlato tantissimo, mi spiace. Beh, una menzione particolare per prima lamentazione su questo, sul tuo album Filmworks, penso che sia forse il punto più alto, potremmo dire, del disco, insieme al già citato Bolero di Ravel, ma cioè, è un po' riduttivo dire, magari indicare un brano rispetto all'altro, però prima lamentazione mi ha colpito in maniera particolare, anche per il suo crescendo, insomma, penso che sia un po' una delle tue prerogative, quella di costruire un qualcosa che, con una tensione che va aumentando, e appunto, come dici tu, come dicono i registi con cui hai lavorato, si crea proprio un matrimonio perfetto, tra la musica e il film, perché se così non fosse non sarebbe neanche, cioè anche il film viene a perdere di valore. Assolutamente, certo, sì. Sì, mi è piaciuto molto quello che hai detto sempre sul booklet, che talvolta ti rendi conto che alcune musiche che avevi scritto prima diventano quasi proprietà del regista, quando lui si rende conto che vanno a sposarsi in maniera perfetta con alcune scene, e che talvolta invece delle cose che tu pensi siano ideali per quella scena invece vengono scartate, lasciandoti brutalmente, magari, sì, brutalmente, sì, un po' di stucco, ecco. Certo, certo. Sì, sì, è successo proprio con la cara amica Valeria Allievi, con cui ho fatto un documentario che si chiama Questa miniera, e avevo scritto un trittico di cose su, tipo, appunto, nel disco c'è Dustin, c'è Trevor e Darvish, che sono proprio tromba, chitarra, cajon, e io ero entusiasta di quelle musiche, in verità lei scelse soltanto Darvish. Per il documentario, ma poi abbiamo riso moltissimo di questo, soprattutto quando ha detto le note di copertina, così, insomma, e quindi succede, cioè, una delle cose che è assolutamente plausibile che succeda, sarebbe molto strano se non succedesse mai, insomma. Giusto. Bene, allora, augurandomi di vederti dal vivo qui in regione prossimamente, intanto grazie per la chiacchierata. Grazie a te. È stato veramente un piacere ascoltare questo disco, e cercherò naturalmente anche i tuoi altri lavori, di cui ero purtroppo non ero a conoscenza. Grazie. E ci sentiamo, insomma, prossimamente, magari per la presentazione anche di una prossima performance o di un altro lavoro, insomma. Assolutamente. Grazie infinite. Grazie a te. E alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Anche a te. Ciao. Ciao. E questa era l'intervista col simpaticissimo Alberto Tur. Abbiamo ascoltato anche diversi brani tratti dal suo Filmworks, CD uscito per la Filmay, lo ricordo, che raccoglie 16 brani tratti dalle varie colonne sonore che ha curato il musicista milanese. Ci sarà comunque modo in una delle prossime puntate di Up di approfondire anche la sua produzione precedente, insieme anche ad Alberto Collino, che la conosce bene, e magari ci scapperà anche un'altra chiacchierata telefonica con Alberto Tur, speriamo bene. Allora, continuiamo con un ultimo brano tratto dalla sua playlist personale. In questo caso andiamo in Svezia, dove troviamo i Meshuggah, un brano tratto dal loro ultimo lavoro, The Violent Sleep of Reason. Questa è Born in Dissonance. We are YG and Nipsey Hussle's video got shut down by cops for an anti-Trump song that's called Donald Trump. I think we got kicked out because we're a group of black people, and like, I guess people, what's going on in America, they're afraid we're gonna say something or do something, but we just really want to watch the rally, and to get kicked out because we're a group of black people is really crazy. It shows you how racist our own school is. We can't even go to our own school. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprised El Chapo ain't tried to snipe you. Surprised the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Hey Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you. Fuck those. Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. I don't like your ass. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, I really fuck don't Donald like you, Trump. Nigga. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, that's fuck Donald grandma. Trump. Yeah. Nigga, am I trippin'? Let me know. I thought all that Donald Trump bullshit was a joke. Know what they say when rich niggas go broke? Look, Reagan sold coke, Obama sold hope, Donald Trump spent his trust fund money on the vote. I'm from a place where you probably can't go. Speaking for some people that you probably ain't know. There's pressure built up and it's probably gon' blow. And if we say go, then they probably gon' go. You vote Trump, then you probably on dope. And if you like me, then you probably ain't know. And if you been in jail, you could probably still vote. If we let this nigga win, we gon' probably feel broke. You build walls, we gon' probably dig holes. And if your ass do win, you gon' probably get smoked, fuck nigga. Fuck Donald Trump. Fuck you. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. Yeah. Hold up, I fuck with Mexicans. Got a plug with Mexicans. When a little need a switch, who I call Mexican. This Comedy Central ass nigga come be the president. Hold up, Nip, tell the world how you fuck with Mexicans. It wouldn't be the USA without Mexicans. And if it's time to team up, shit, let's begin. Black love, brown pride, and assess again. White people feel the same as my next of kin. Let this nigga win, God bless the kids. God bless the kids, this nigga wicked and weird. When me and Nip link, that's Bloods and Crips. When your LA rally, we gon' crash your shit. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. E tanto per gradire, dopo i Meshuggah, questo era YG insieme a Nipsey Hussle, un brano che diciamo ha fatto parte di una specie di operazione in diverse radio piccole in America, diciamo un'operazione di hackeraggio. E al posto della programmazione normale è stata inserita a ripetizione questa canzone, che non è proprio un inno a favore di Donald Trump, infatti porta il titolo di FDT, Fuck Donald Trump. Penso che ogni traduzione sia superflua, e quindi radio che trasmettevano normalmente R&B oppure country o altre cose che diciamo non ha niente a che fare con il rap di protesta si sono ritrovate in scaletta questo brano per tutta la giornata, e questo non può che farci piacere. Siamo giunti dunque al termine di Up, io vi propongo un ultimo brano tratto dall'album che abbiamo sviscerato, direi, in questa puntata, ovvero Filmworks di Alberto Turra, e dunque vi saluto con Trevor e vi auguro un buon fine settimana e un arrivederci, un risentirci alla prossima puntata di Up, sempre venerdì dalle 19 alle 21.